giovedì 26. Che faccio? Spengo il microfono, accendo il microfono. È giovedì 27 settembre, la colpa è mia, non dell'alpino Peter Bescapè. Schiaccio i tasti qua e sbaglio. Allora, una rapida carrellata di titoli. Il Sole 24 Ore, regioni, tasse aumentate del 50%. È un'inchiesta oggi in prima pagina. Poi la situazione borse, Corriere della Sera, lo spread torna a mordere. Repubblica, la Spagna affossa i mercati. Il Messaggero, borse giù per la Spagna. La Stampa, la Spagna spaventa le borse. Poi ecco la vicenda Sallusti. Arrestateci tutti per Libero, ma soprattutto il Giornale. Vergogna, Sallusti in galera, i delinquenti fuori. Un'intera prima pagina dedicata a questo tema. Le regioni, per il Fatto Quotidiano, sorpresa, la Polverini si dimette solo in TV. L'Unità, Polverini fa ancora nomine. Mentre Avvenire, una dieta rigorosa sulle regioni per il Secolo XIX, corruzione, ultimatum di Napolitano, mentre Il Manifesto, mezzogiorno di fuoco sulla situazione del lavoro, il Sud sprofonda così il rapporto Svimez, questo è il titolo di apertura. Voglio partire però allora dalla condanna definitiva, 14 mesi, ad Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, per un articolo uscito su Libero. Era sempre lui il direttore nel 2007. Il Giornale dedica almeno 10 pagine, le prime 10, anzi di più, sono ben 14 pagine a questo tema. In Italia più che gli euro mancano le palle, questo è il titolo dell'editoriale di Sallusti, che scrive in prima pagina del Giornale: fa un certo effetto sapere di dover andare in carcere, ma non è questo il problema, non il mio, in un paese dove più che gli euro mancano le palle. Non voglio concedere nessuna via d'uscita a chi ha partecipato a questa porcata. Non ho accettato trattative private con un magistrato, il querelante, che era disponibile a lasciarmi libero in cambio di un pugno d'euro, prassi squallida e umiliante più per lui che per me. Non chiederò la grazia a Napolitano, perché detto con rispetto, nel suo settennato nulla ha fatto di serio e concreto per arginare quella magistratura politicizzata che con odio e bava alla bocca si è scagliata contro chiunque passasse dalle parti del centrodestra. Non voglio poi risolvere il problema di Mario Monti, accademico di quella Bocconi che dovrebbe essere tempio e fucina delle libertà e che si trova sul collo e il suo immobilismo complice il suo immobilismo sul caso la medaglia della sentenza più illiberale dell'Occidente. Ma stamani scriverò al prefetto di Milano per annunciargli che rinuncio alla scorta. Ragazzi meravigliosi, sottopagati, che non finirò mai di ammirare, che da 2 anni mi protegge notte e giorno da concrete e reiterate minacce. Non posso accettare che una parte dello Stato, il Ministero degli Interni, spenda soldi pubblici per tutelare una persona che un'altra parte dello Stato, la magistratura, considera in sentenza definitiva soggetto socialmente pericoloso. E ultime, ma primo in ordine di importanza, oggi mi dimetto. Questo sì con enorme sofferenza, da direttore responsabile del Giornale, per rispetto di lettori e colleghi. Il Foglio della Libertà non può essere guidato da una persona non più libera di esprimere ogni giorno e fino in fondo il proprio pensiero. Questo è l'editoriale di Sallusti, il Giornale Siamo Tutti Sallusti. C'è da dire che inizia questa campagna Siamo Tutti Sallusti, mentre Libero Arrestateci Tutti, c'è un disegno di Sallusti in prima pagina. C'è da dire che tutti i giornali, anche quelli orientati politicamente, diciamo, non come il Giornale, esprimono solidarietà. Per esempio Norma Rangeri, direttore del Manifesto, opinioni pessime ma libere. Il direttore del Giornale Sallusti è stato condannato ieri, come abbiamo scritto in questi giorni, il carcere per i reati d'opinione è inaccettabile, la pena certo è stata sospesa. Dicono che dopo lo sfascio della Seconda Repubblica stiamo per entrare nella Terza, prima però dovremmo uscire dal Medioevo. O anche sull'Unità in prima pagina c'è un commento, un riquadro: non si può pagare una diffamazione con la detenzione, quella legge va cambiata, è una questione di libertà, di diritto all'informazione che riguarda ciascuno di noi. In prima pagina del Sole 24 Ore c'è uno spazio bianco, troverete questo spazio bianco, non è un errore in tipografia, ma in questo spazio bianco si legge in un breve corsivo del direttore Roberto Napoletano: si è tentato di mettere in galera la libertà di espressione con questo spazio bianco qui a fianco. Ricordiamo che si è tentato questo, ma non lo consentiremo mai più. C'è da dire che, ecco, sul secolo XIX trovo un'opinione che non è in sintonia. L'opinione di Mauro Barberis, o Barberis, che è docente di filosofia del diritto all'Università di Trieste, è che scrive sentenza giusta. Sapete come iniziava quell'articolo in questione nel 2007? Iniziava così: un adolescente di Torino è stata costretta dai genitori a sottomettersi al potere di un ginecologo che, non sappiamo se con la pillola o con qualche attrezzo, le ha estirpato il figlio e l'ha buttato via. Lei proprio non voleva, si divincolava. Un magistrato allora ha ascoltato le parti in causa e ha applicato il diritto decretando l'aborto coattivo. Questo era l'inizio dell'articolo in questione, per il quale il magistrato, mai citato con nome e cognome, ma si è ritenuto diffamato, Giuseppe Cocilovo. E questo racconto del dramma della tredicenne racconta, tra l'altro, Mauro Barberis: non è dimostrato che a scrivere quell'articolo sia stato Renato Farina, l'agente betulla dei servizi segreti, come tale radiato dall'ordine dei giornalisti, che non avrebbe dunque potuto firmarlo. Ma il punto non è che è un'opinione, il punto è che tutto questo scritto era falso. La ragazzina incinta, lungi dal divincolarsi, si era rivolta lei al giudice, insieme con la madre, per ottenere l'autorizzazione ad abortire, come prevede la legge, e il giudice l'aveva semplicemente concessa. Figuriamoci se poteva ordinarlo lui, l'aborto. Insomma, questa è la questione. Per questo Sallusti è stato condannato. Che la pena poi venga sospesa, va bene tutto, che il presidente Napolitano gli conceda la grazia, va bene, ma scandalizzarsi di tutto questo proprio no. E conclude Barberis: se mai Sallusti finirà in galera, giuro, gli porto io stesso le arance. Insomma, è l'unica opinione veramente forte e controcorrente, a fianco invece di una diffusa solidarietà al direttore del giornale per questa condanna. Vabbè, poi c'è il solito graffiante Iena, Riccardo Barenghi sulla Stampa, pagina 3. Paradossi: Sallusti in galera e Berlusconi in libertà. Ha commentato ieri, tra l'altro, il direttore del giornale, parlando alla sua redazione. Non andrò, appunto, non chiederò l'affidamento ai servizi sociali, se c'è da andare in carcere andrò in carcere. Beh, certo, però se mi mettessero a rieducarmi con le olgettine, magari un pensierino lo farei. Allora, alle 7:35 minuti, la questione delle regioni. Oggi sul Sole 24 Ore c'è un'inchiesta che non vi dovete perdere, perché certo farà venire un po' il sangue amaro, ve lo dico già subito. Il titolo di apertura di prima pagina del Sole è chiaro e emblematico: regioni, tasse aumentate del 50%. Questo è il risultato di 10 anni di decentramento, insomma 10 anni di pressione fiscale in aumento. Secondo un'inchiesta condotta dal Sole sui conti delle regioni, dal 2001 a oggi i governatori sono intervenuti sulle tasse di propria competenza aumentandole del 50%. Questo senza alcun vantaggio per cittadini e imprese, perché quelle statali sono cresciute contemporaneamente del 31,6%, mentre i costi della politica sono raddoppiati. Insomma, come la vedete, da qualunque parte la vediate, è assolutamente tutto a svantaggio dei cittadini. Aumentate le addizionali IRPEF regionali, aumentate anche le tasse nazionali, costi della politica nel frattempo raddoppiati. Avete per questo, cari cittadini, notato però dei benefici in termini magari di maggiore vicinanza con le regioni, nei servizi? Magari sì, magari tutto questo prezzo pagato ha avuto, magari in realtà proprio no. Fisco regionale da record, più 50% in 10 anni, questo è il titolo poi dell'inchiesta che trovate a pagina 3 con Eugenio Bruno e Gianni Trovati. C'è anche l'editoriale del direttore del Sole Roberto Napoletano in prima pagina, dal titolo "L'errore grave da correggere". Scrive Napoletano: si era detto che il decentramento prima e il federalismo poi avrebbero accorciato la filiera tra cosa pubblica e cittadino, avrebbero reso più facile il controllo sulla gestione delle risorse. Non è stato così. Una volta aperta la nuova diga, la massa d'acqua della spesa pubblica, concentrata tutta al centro, si è riversata in periferia, travolgendo ogni argine di controllo e moltiplicando parallelamente il tasso di angheria burocratica sui cittadini e su chi vuole aprire un'impresa, e i poteri di veto sui grandi investimenti infrastrutturali. Far passare la spesa cattiva, tanta, per clientele e poltrone, insieme a quella buona, poca, per i servizi ai cittadini e imprese, è stato un gioco da ragazzi. E viene da sorridere a pensare che sia stato un Batman di Anagni a doverlo smascherare. Non è più tempo di indugi e denunce folcloristiche. Alzano grandi polveroni e tutto resta come prima, ma è tempo di azione, fatti, e subito, e non parole. Così Roberto Napoletano, nel direttore del Sole, nel presentare l'inchiesta all'interno sul fisco, appunto. Le regioni ci hanno portato un più 50% di fisco in 10 anni. Da qui partiremo, avremo ospite il governatore della Calabria, uno dei presidenti di regione, Giuseppe Scopelliti, alle 8:30. Tra l'altro, regioni che ieri hanno presentato una riforma costituzionale, un progetto di legge per tagliarsi quanti 300 consiglieri, sono circa 1100, l'ha annunciato Roberto Formigoni ieri uscendo dalla conferenza delle regioni. È un progetto composito, taglieremo ovviamente dalla prossima legislatura, e da questa non si può, non è che si prendono delle persone e le si buttano a calci fuori dai consigli regionali. 300 consiglieri regionali in meno in tutta Italia, degli attuali 1100 errotti. Questa è la proposta delle regioni, poi meno soldi ai gruppi, staremo a vedere. Ma intanto la domanda è questa che si fanno tutti: ma Renata Polverini si è dimessa? Non si è dimessa? Non si è dimessa, questa è la risposta. Formalmente non si è dimessa. Ieri a Porta ha detto: sono la presidente uscente del Lazio, ma non sono ancora uscita. Ecco che però su questo si esercita molto la stampa. Non se ne va, la stampa in generale, non la stampa quotidiana, tutti i quotidiani. Non se ne va, questo è il titolo del Fatto Quotidiano. Renata Polverini ancora in carica, annuncia pulizia nella sua giunta. Già, ma perché non se ne va? Leggiamo da vari giornali. Il Corriere della Sera, pagina 8, Polverini, rimpasto e nomine finali. Vuole tagliare alcuni assessori. I nemici interni rischiano di uscire, ci sono anche i nomi di quelli che gli ex forzisti che rischiano di saltare come assessori, come Fabio Armeni, Marco Mattei, Stefano Zappalà, così scrive il Corriere della Sera, rischiano anche Angela Birindelli, indagata Viterbo, rischiano gli ex AN Pietro Di Paolo, Luca Malcotti. Mentre invece salvi tutti gli assessori vicini alla Polverini per il Corriere, tra questi i due dell'UDC, Ciocchetti e Forte, Erpecora Buontempo della destra, l'ex UGL sindacato da cui proviene Polverini Stefano Cetica, gli amici di Renata come Mariella Zezza, Pino Cangemi, Fabiana Santini, che con lei vanno a correre la domenica mattina. Questa è l'idea del Corriere, cioè vuol far saltare alcuni e confermare altri. Secondo invece la stampa, Francesco Grignetti a pagina 5, sono nomine in extremis quelle che sta facendo la Polverini. La presidente regionale, che non si è ancora formalmente dimessa, riunisce la giunta, assume e proroga contratti scaduti. Ha per esempio assunto, secondo la stampa, con Francesco Grignetti, ha nominato Giuliano Bologna, il coordinatore avvocatura regionale, Raffaele Marra, direttore direzione regionale organizzazione, insomma alcuni dirigenti. Anche per il manifesto Lazio, operazione vitalizio. Questa sarebbe invece la ragione, secondo Andrea Fabozzi, sul manifesto a pagina 4, il problema è anche il vitalizio. Perché Renata Polverini non si dimette effettivamente? Ha prorogato i dirigenti, salvaguarda gli stipendi e le pensioni e può perfino regolare qualche conto con gli assessori. Intanto... cari ascoltatori, è un tentativo adesso di smarcarsi. Le regioni appunto hanno detto: va bene, ci tagliamo 300 consiglieri. Il governo però pare, ha annunciato il ministro Patroni Griffi, domani potrebbe presentare un decreto per una riforma costituzionale, per una stretta vera e propria sulle regioni. Vendola ha annunciato: mi taglio di 50.000 euro all'anno lo stipendio. Lo trovate un po' un trafiletto, per esempio, sul Corriere a pagina 9. Vendola ha scritto al presidente del Consiglio pugliese. Lui guadagna come presidente della Puglia 19.600 euro lordi al mese. 19.600 euro lordi. E ha scritto: siamo a un passaggio davvero drammatico della vita democratica del paese, c'è la crisi, il disagio sociale che bussano alle porte di milioni di famiglie, rendendo incerto il futuro delle giovani generazioni. Ve la vedete, c'è una lettera di Vendola, quindi è una cosa, un eloquio anche forbito, come al solito. Ovviamente per tutto questo auspico che il Consiglio regionale provveda a questo, di tagliarmi i 50.000 euro, non ho capito se lordi o netti, lo stipendio. Insomma, hanno tutti un po' paura, cioè c'è questo scandalo e tutti cercano di porre rimedio. Per esempio, leggere così, si può leggere così la mossa di Bersani, scrive Carlo Bertini sulla Stampa, pagina 9, la mossa di Bersani ai deputati 1.000 euro in meno. È stato depositato, o meglio, oggi il Partito Democratico depositerà questa proposta di legge: sforbiciare di 1.000 euro netti le indennità dei deputati, portarle a 4.000 e rotti su livelli di sindaci di città come Firenze. Ah, come Firenze. Il PD di Bersani vuole portare gli stipendi dei politici al livello del sindaco di Firenze. Chissà come mai. E tagliare altri 3.500 euro di diaria, facendo rimborsare le spese solo ai non romani. Sì, perché adesso ci sono le spese anche di diaria, cioè di recarsi al posto di lavoro, che vengono date anche ai deputati che risiedono a Roma. Grande viaggi, viaggioni, proprio gente che esce di casa, fa 200 metri a piedi, magari perché abita anche, ha la fortuna di abitare vicino a Montecitorio, e prende la diaria, perché la diaria è per stare a Roma, a casa sua comodamente. C'è anche questo. Comunque, insomma, è tutto un cercare di porre un argine anche a questa ondata di polemiche anticasta, anche con iniziative, come dire, personali. Oggi l'intervista, per quel che riguarda la regione, è a Carlo De Romanis, lui che si definisce ormai sono l'Ulisse tra i maiali, sono conosciuto così, intervistato da Pubblico, lo trovate a pagina 8, un'intera pagina, Maria Grazia Gerina lo intervista. Alla regione Lazio c'era un'associazione a delinquere, così Carlo De Romanis, che dice: io sono l'Ulisse tra i maiali, ma il problema è che Fiorito è molto bravo a comunicare, quasi quasi in TV convinceva anche quelli come me che sanno bene come stanno le cose. Insomma, lui dice: io non ho rubato niente, non ho rubato nulla, non sono accusato di nulla. Quella festa lì, l'ho detto, era una bella festa, quella coi maiali, Andate a chiederlo a chi c'era, non credo che qualcuno possa raccontare di droga o di orge. Vero? E poi l'avete mai visto un festino con 2.000 persone? Volevo solo fare una cosa in grande e non mi pento, ma l'unica cosa sfarzosa era la scenografia, che poi è costata anche meno di quello che può sembrare. Il fatto è che adesso, con la gente che non arriva a fine mese, si fa presto a gridare allo scandalo, ma parliamo di 2 anni fa, mica c'era la crisi come adesso. Ecco, quella festa era di 2 anni fa. Carlo De Romanis che dice: non sopporto proprio che mi si associ a Fiorito e che si dica: ecco un altro che ci ha mangiato. Intervistato da Pubblico. È il momento del traffico. Siamo qui alle 7:47 minuti, anzi 7:48 minuti. Altra notizia dalle regioni: in Sicilia gli stipendi dei dipendenti regionali, dipendenti della regione Sicilia sono tanti, mi pare circa 20.000, non verranno dati oggi, al 27 del mese, perché c'è una causa promossa da altri dipendenti che hanno vinto questa causa, e quindi è stato pignorato tutto, pignorato le casse della regione Sicilia, perché visto che hanno vinto questi dipendenti la causa, bisogna in attesa mettere da parte i soldi per loro, dovessimo poi darglieli in futuro. E quindi per il momento Sicilia pignorata, così titola pagina 7 Il Fatto Quotidiano. Vi ricordate l'ex assessore Vecchio, quello che è stato cacciato, che da noi disse qualche mese fa, facendo arrabbiare moltissimo il governatore Lombardo: temo che tra poco non riusciremo più a pagare i soldi ai dipendenti della regione Sicilia? Eccolo qua. In Sicilia però, attenzione, pignorati i conti, niente stipendi alla regione, così titola il Messaggero, pignorati ma non per tutti. Secondo voi chi sono gli unici che l'hanno scambiata per un soffio? Che l'hanno scampata per un soffio, l'hanno scampata per un pelo, e ce l'hanno fatta a prendersi anche questo mese lo stipendio della Regione Sicilia? I deputati, vale a dire i consiglieri regionali. Loro in Sicilia ci sono i soldi solo per gli onorevoli, stipendi ai parlamentari, ma non ai dipendenti, se li sono assegnati poco prima, giusto quell'attimino prima che arrivasse l'ordine di pignoramento delle casse regionali. E dunque, eccolo qua, Assemblea Siciliana pignorata, niente stipendio ai dipendenti, ma, come scrive Antonio Fraschilla anche su Repubblica, per un soffio davvero provvidenziale, si sono salvati 90 deputati, gli onorevoli siciliani, con loro, per loro indennità e rimborsi, pari a quelli di un senatore, garantiti anche questo mese. Buon per loro, certamente. Che dire, c'è anche questa storia, poi davvero chiudiamo questa vicenda, che racconta su Libero Fosca Binker, vale a dire Franco Bechis, vice direttore di Libero, alla provincia di Roma, già il titolo è un programma, un consigliere del PD si autoassume per incassare i rimborsi. Alla provincia di Roma l'ultimo mandato di pagamento di 6.747 euro arrivato a Ruggero Ruggeri, consigliere del PD alla provincia di Roma, scrive Libero. Perché questo rimborso? Perché ha preso permessi dall'azienda in cui lavora per partecipare ai lavori del consiglio provinciale. Ebbene, ma l'azienda in cui lavora qual è? La Fratelli Ruggeri Diffusioni Editoriali. Non è omonimia, è proprio sua. Con il capitale diviso in parti uguali con due fratelli. E la Procura di Roma nel 2010 dette un'occhiata a quel contratto di Ruggeri e scoprì che l'assunzione era avvenuta proprio pochi giorni prima dell'inizio del suo mandato di consigliere provinciale. E quindi è diventato socio col fratello, per cui adesso chiede al consiglio provinciale il rimborso perché prende dei permessi dall'azienda sua e di suo fratello, e arrivano i rimborsi all'azienda di cui lui è dipendente e di cui lui è anche socio con suo fratello. Ecco qui il titolo: consigliere del PD si autoassume per incassare i rimborsi, da Libero a pagina 8. Bene, intanto il ministro dell'economia Grilli ha assicurato, a Francoforte era con una delle persone considerate più ostili, uso questo termine per caricare un po' i termini nei confronti della strategia di Monti e dell'Italia del salvataggio dell'euro, vale a dire il presidente della Bundesbank Jens Weidmann. Grilli ha assicurato no sostegni, Berlino ha anche detto l'Italia può farcela. È un Grilli che dice non siamo come la Spagna, questo tecnicamente è quello che dice. È quello che dice Grilli, non siamo come la Spagna e dunque non avremo bisogno di aiuti, come nel retroscena di Repubblica a pagina, in prima pagina e poi a pagina 3 di Roberto Mania, noi siamo diversi da Madrid, non servono aiuti, il governo esorcizza la sindrome del contagio, tra l'altro Madrid che in questo momento è davvero sconvolta anche da tensioni anche sociali, da tensioni di piazza, scontri di piazza, d'altronde le borse sono andate giù ancora per Madrid. Voglio chiudere con quella che è una novità che potrebbe riguardare molti italiani che vanno allo stadio a partire dalla prossima stagione. Sarà forse vietato fumare anche negli stadi dove si fanno le manifestazioni sportive. Primo divieto totale all'aperto in Italia. La sperimentazione sarà dal prossimo campionato. Che ne pensate? C'è una pagina su Repubblica, pagina 20, non è ancora definitivo, ma può darsi che potrebbe essere così. Dall'anno prossimo vietato fumare anche negli stadi, seppure aperti, dove ci sono le manifestazioni sportive, soprattutto il calcio. A proposito del calcio, il Milan ha vinto. Questa è una notizione, eh? Il Milan ha vinto. Notizione. Ci fermiamo per il giornale radio. We'll be right back.